preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Voce, chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. Iniziamo con due lavoratrici della sanità che sono qua presenti con noi e che ci racconteranno appunto le loro vicissitudini, diciamo, da quando è stato introdotto il Green Pass e anche l'obbligo vaccinale. Ciao, io sono una lavoratrice al momento sospesa dall'attività lavorativa, e questo dal 30 di ottobre del 2021. E altri operatori sanitari prima di me le sospensioni erano iniziate a luglio e poi sono continuate perché non si sono organizzati neanche bene loro, per fortuna, perché l'organo competente, che doveva essere l'ATS a sospendere i lavoratori, l'ha fatto in parte. Poi non si sa come mai, quando è arrivato l'obbligo del Green Pass per il 15 di ottobre, sono state le amministrazioni a muoversi, come nel mio caso. Io sono riuscita a tirare a fine mese di ottobre solo perché ho aderito a sto sciopero di questo sindacato FISI, che è un sindacato di categoria e che poi ho saputo pure essere sindacato di destra, ma non avevo altra possibilità per oppormi a tutto quello che mi stava succedendo. E per cui poi l'amministrazione, al di là della norma che dice che è l'ATS che ti deve sospendere e ti dovrebbe mandare tre raccomandate, cosa che io non ho ricevuto, eccetera eccetera, e che l'amministrazione dove lavori ti dovrebbe trovare un'altra sistemazione dove non hai contatto con il pubblico, questo non è stato fatto da nessuna parte. Per cui le norme in questo stato di emergenza, che continua a essere provocato, permette a tutte le istituzioni di fare quello che vogliono, al di là delle norme, per cui in questo momento non c'è più nessuno stato di diritto. e ormai non si capisce più niente. Comunque a me mi ha sospeso l'amministrazione in via precauzionale, così c'era scritto, il 30 di ottobre, fino al 31 di dicembre con conservazione del posto di lavoro. La cosa strana è stata dopo, che al 28 di dicembre mi è arrivata un'altra comunicazione dell'amministrazione che mi viene detto: lei è sospesa fino al 31 di marzo, perché lo stato di emergenza è stato prorogato fino a marzo. E dopo due giorni mi arriva un'altra mail dove mi si dice: no, lei è sospesa fino al 15 di giugno. A quel punto ho sentito l'avvocata che mi sta seguendo e che mi ha fatto capire che praticamente lo stato di emergenza già è previsto che sia prorogato fino al 15 di giugno. Per cui, come dire, hanno ragione sempre loro. Noi in ospedale ci eravamo già mossi ed eravamo parecchio, come dire, incazzati. E proprio perché, a differenza degli altri, sapevamo quello che stava succedendo dentro, e dentro negli ospedali è stato veramente un genocidio. Perché non sono stati mai attuati, ancora oggi non completamente, tutte quelle norme di percorso sporco pulito, che sono delle norme banali, e non l'hanno mai voluto attuare. Per cui chiunque nei periodi nei quattro picchi epidemici che abbiamo avuto, eccetera eccetera, chiunque ha bisogno di un pronto soccorso e sicuramente non sta bene quando ci va ed è immunodepresso, rischia comunque ancora oggi di pigliarsi il Covid, come è stato, e tanta gente se l'è preso solo per essere andata in pronto soccorso perché stava male e poi magari non è uscita più, come dire. E nell'ambiente di lavoro la situazione, diciamo, che è stata pesante pure là, perché ancora prima che mettessero l'obbligo vaccinale già parecchi lavoratori si erano vaccinati. Io sono per la libera scelta, per cui chi vuole, ognuno si cura come vuole, come dire, ognuno sceglie per sé. E tutti i lavoratori, io mi ricordo, tutti i colleghi si rivolgevano a me, come dire: ma come, tu non ti vaccini, eccetera eccetera. E prima che ci fosse l'obbligo, pure la medicina del lavoro della mia azienda mi aveva contattata con un'email per chiedermi il motivo della mancata vaccinazione, se volevo fare un counseling col medico loro, eccetera eccetera. E ho detto che comunque aspettavo che mettessero l'obbligo, perché l'avevano già annunciato, e che comunque avrei dovuto fare degli accertamenti per vedere se mi potevo sottoporre a vaccinazione. E dopodiché loro non si sono fatti più sentire, e poi mi è arrivata appunto la comunicazione dell'azienda e non dell'ATS, come doveva essere da norma, che ero sospesa. Ma la cosa sconvolgente è stata l'ambiente di lavoro, con tutti i colleghi che comunque erano loro più ligi, come dire, di chi era preposto a livello istituzionale ai controlli o all'amministrazione, per cui, come dire, già lavorare ancora prima della sospensione era dura. Passo la parola a un'altra lavoratrice della sanità. Ciao a tutti e a tutte, anch'io sono una lavoratrice della sanità milanese. E diciamo che io ho un'esperienza abbastanza diversa sotto diversi punti di vista. Si Scusate, sente male? Sono forse un attimo più vicino. Ah, ok. Scusate. Per esempio, vabbè, questo tanto perché non c'è alcuna giustizia sotto questo cielo. Come diceva prima la compagna, le norme che hanno portato poi, o che dovevano portare, alla sospensione per questo obbligo vaccinale sono state applicate in maniera completamente diversa anche a seconda dei vari posti. E a me in realtà non è mai arrivato nulla da parte né di ATS né da parte del datore di lavoro né da parte dell'ordine professionale a cui appartengo, perché a un certo punto, prima all'inizio sembrava che dovesse essere ATS che faceva un abbinamento insieme ai nominativi che venivano dati dal dottore di lavoro e verificava se si era vaccinati. Poi, quando hanno visto che non ce la facevano a stare dietro questa cosa, hanno passato la palla ai datori di lavoro piuttosto che agli ordini professionali. Comunque, insomma, a me da un certo punto di vista, ovviamente per fortuna, questa cosa non è mai arrivata. E se non che io a un certo punto ho deciso, tra virgolette, diciamo autosospensione, cioè mi sono chiesto un'aspettativa, perché comunque quando dopo il 15 ottobre era arrivato l'obbligo comunque di avere un Green Pass, almeno con un tampone, io ho scelto di non stare dietro a questa cosa, perché mi sembrava veramente assurdo che io dovessi, nonostante io nel mio posto di lavoro ogni settimana mi sottoponevo spontaneamente a un tampone che mi offriva l'azienda, che mi sembrava assurdo di dover essere io a dovermi tamponare e pagare per questo. Quindi a questo punto io ho scelto di prendere un'aspettativa. E niente, insomma, per cui adesso questa è la situazione. Solo che cosa è successo? Che dopo il 15 dicembre anche chi aveva preso ferie, malattie, aspettative e quant'altro, nell'azienda non può più entrare, perché grazie all'uso dei dispositivi digitali, per poter passare il badge bisogna comunque prima passare allo scanner il Super Green Pass, che quindi a questo punto deve essere un Super Green Pass e non più un Green Pass. Quindi in ogni caso, chiamati o non chiamati, siamo fregati. Fra poco a me scadrà l'aspettativa, quindi io rientrerò poi nel caso della compagna che ha parlato prima. Un'altra esperienza diversa, sempre rispetto alla sua, è che mentre lei diceva che comunque tutti i vari percorsi di pulito sporco e di garanzie che i pazienti lì non si infettassero nel suo luogo di lavoro non erano garantiti, invece nel mio luogo di lavoro, anche quando tipo durante l'estate non esisteva veramente la possibilità che ci potesse essere il Covid sia tra gli operatori che i pazienti, perché tutti venivamo comunque tamponati, stratamponati, i pazienti più volte all'ingresso, e erano, diciamo, dopo il 2020 in cui era successo il delirio, la strage eccetera, erano state prese veramente tutte le accortezze, lì non si è mai smesso, ma neanche il 15 d'agosto per dire, di avere tutti i DPI completi. E questo, cioè, vi faccio solo immaginare di come potesse essere pesante per noi. Ripasso poi adesso alla compagna. Per capirci su come funziona la sospensione. La sospensione è come un'aspettativa non retribuita, per cui non si percepisce lo stipendio, non ti vengono pagati né previdenza, né parte pensionistica, né TFR, niente. E tutto rimane in sospeso, per cui io in questo momento, oltre a non percepire lo stipendio, non maturo neanche per gli anni pensionabili, come dire, per arrivare alla pensione. Questo pure io, Perché è come fosse un'aspettativa. E loro, come dice la legge, è con conservazione di posto di lavoro, solo che con sta roba del pass e con le restrizioni che sempre aumentano, adesso abbiamo il Green Pass rafforzato, e ormai io non ci credo più che noi ne usciamo da questa situazione, tranne che non ci organizziamo veramente su tutti i fronti e non ci spezzettiamo più, perché secondo me le lotte devono essere unitarie a questo punto, perché pass e sanità e repressione sanitaria che c'è sempre stata, perché le case farmaceutiche hanno sempre giocato da questo punto di vista, il Ministero della Sanità con gli strumenti che ha messo fuori adesso solo per reprimerci, influenzare e condizionare la gente, potrebbe per esempio fare educazione sanitaria. Voi avete mai sentito in TV che parlano su cosa dovrebbero mangiare i bambini o su quali stili di vita dovrebbero avere? O dare un minimo di indicazione? È vero, questo l'abbiamo sempre fatto noi operatori sanitari, però ormai non esiste più territorio dove si fa prevenzione ed educazione sanitaria, perché ormai siamo scomparsi. Perché per esempio adesso, dove lavoro io, non è più prevista la mia figura, perché la collega con cui lavoravo è andata in pensione, io sono sospesa, e in questo momento manca un sacco di personale, e poi comunque già mancavano altre figure sul territorio, che stanno depauperando perché non gliene frega niente. E non so se sapete che la regione Lombardia è stato chiesto che riformasse la riforma che era stata fatta da Maroni nel 2015 che venisse riformata visto il risultato con l'epidemia da Covid. Bene, questi qua si sono riuniti e per la prima volta la sinistra istituzionale ha fatto un minimo di opposizione, però sempre relativa, e comunque questi qua hanno prodotto una legge che è peggiorativa di quella precedente, perché avendo a disposizione adesso i finanziamenti del PNRR, praticamente come dire, hanno pensato bene, come è in uso ormai in Lombardia, perché questa è l'eccellenza lombarda, spostare i soldi pubblici al privato. Per cui sta sorgendo di tutto a livello privato, compresi poliambulatori, poliambulatori che poi vai a vedere e sono rari quelli che sono convenzionati su tutte le prestazioni, perché per lo più sono convenzionati solamente per quanto riguarda gli esami del sangue. Poi vai a chiedere una ecografia in questi che dovrebbero sopperire le carenze ospedaliere, diciamo, degli ambulatori ospedalieri o pubblici, e ti dicono che c'è posto solo a pagamento. Per cui veramente l'accesso alle cure qua in Lombardia è veramente difficoltoso. E non oso pensare agli anziani, soprattutto poi in questo periodo di Covid, e qua a Milano nello specifico, ma credo che sia una roba generalizzata, abbiamo portato avanti delle rotte perché mancano addirittura i medici di base. Ci sono delle intere zone con migliaia di cittadini che sono rimasti abbandonati a se stessi praticamente. E per cui ci si è mossi un po' da tutti i punti di vista, anche a livello sindacale. Nella mia azienda l'anno scorso abbiamo fatto uno sciopero, è stato l'unico sciopero fatto proprio per come veniva gestita la pandemia e per come venivano utilizzate le risorse, perché ci hanno promesso, e l'abbiamo sentito tutti, che avrebbero assunto personale, che hanno finanziato non si sa su quali risorse dovevano arrivare, ma non è arrivato mai niente. Per cui, anzi, siccome il personale infermieristico negli ospedali ha sempre sofferto di carenza di numeri, con l'epidemia si è ritrovata sempre di più, man mano che passavano i vari episodi, sempre più stanca, sfiancata, trattata malissimo, perché ci sono stati mobilità, cioè gli ordini di servizio in questo periodo si sono spesi. E gli ordini di servizio li rilascia la dirigenza per costringerti a fare qualcosa, e tu non ti puoi, in sanità, non ti puoi rifiutare. Per cui hanno fatto mobilità selvagge, facevano fare i turni a chi non era turnista, pure a chi aveva limitazioni, è successo di tutto. Per cui ormai praticamente nell'ultimo anno ci sono tantissime dimissioni di personale, di operatori sanitari, fra medici, infermieri, OSS e tutto quanto. Per cui loro stanno continuando, invece di assumere, perché noi in Avita chiediamo assunzioni a tempo indeterminato, hanno continuato ad assumere con cooperativa, eccetera, eccetera. E nell'ospedale dove sono io abbiamo cercato di limitare i danni, perché abbiamo fatto da sempre, ci siamo sempre opposti, però pure là, con la storia dell'emergenza, qualcosa l'hanno fatta. Posso aggiungere? Sì. Allora, voglio solo aggiungere questa cosa. A mio parere, e non solo ovviamente a mio parere, il Covid è stato comunque la pandemia un acceleratore di processi rispetto a questa scelta di privatizzare la sanità, come è stato in Lombardia, soprattutto in Lombardia, anche in altre regioni, ma ovviamente noi abbiamo il primato. Col Covid ovviamente all'inizio tutti una serie di posti pubblici hanno subito dei grossissimi problemi, hanno chiuso tutta una serie di servizi che poi, guarda caso, in molti posti comunque non hanno riaperto, servizi che già comunque ancora prima della pandemia stavano chiudendo. Mi viene un esempio da fare, che è il Pio Albergo Trivulzio, che è uno dei più grossi istituti riabilitativi che abbiamo qua a Milano, a cui si riferivano ovviamente tantissime persone, soprattutto anziane, ma non solo. Allora, dopo che è successo quello che ben immagino sapete tutti, non hanno più riaperto gli ambulatori, tutti i servizi ambulatoriali di fisioterapia, perché comunque questo posto ha scelto di diventare hub vaccinale, no? Anche perché l'unica praticamente cosa che è stata scelta di, ma questo non solo in Lombardia, un po' dappertutto, di incentivare è stata la vaccinazione, che può essere anche una scelta, però ahimè è stato assolutamente non calcolato tutto il resto, per esempio il discorso del contact tracing, piuttosto che il discorso delle USCA, delle unità che dovevano andare a domicilio, che erano state all'inizio proposte in numero limitatissimo, non sono poi mai in realtà fiorite, e questa cosa di curare la gente a domicilio nei primissimi periodi avrebbe evitato veramente l'ospedalizzazione e la morte di moltissimi pazienti. Quindi questo lo dico anche perché purtroppo rispetto a chi ha fatto la scelta di non essere vaccinato c'è stata una grossa e penosa colpevolizzazione, no? Come se il problema fosse chi sceglieva di non essere vaccinato, quando sappiamo che dietro c'è ben altro. Okay. E per concludere voglio ricordare a tutti che gli operatori sanitari che stanno lavorando in questo momento, e che per esempio nella mia azienda solamente nella prima settimana di gennaio c'erano 150 contagiati, e chi sta lavorando ha fatto la seconda e la terza dose. Poi dovete tener conto e pensate ai reparti Covid che ci sono in un ospedale dove lavora questo personale che è vaccinato, ma visto che sappiamo tutti ormai che vaccino non vuol dire che tu non possa contagiare, che tu non ti contagi o non possa contagiare, questi lavoratori praticamente fanno da tramite tra i reparti Covid con l'esterno, con la famiglia, o vai a fare la spesa, o stai in giro, o socializzi, eccetera eccetera, solo perché hai il Green Pass. Per cui sta roba illogica del Green Pass, come se ci salvasse dal contagio e dalla diffusione del virus, che poi non è vera, e questo è da sottolineare. Las leonas son las que cazan. Nuestra idiosincrasia es matar con risas el odio sin gracia. Hasta la tristeza se baila. Arroz con huevo y mucha salsa. Si me despido no me dejan ir. Borracho profesional se va callado a dormir. Alero, le, le, le, lo, le, lo, la. Quiero estar preso acá. ¿De dónde sale tanta nea? El barrio es un imán. Y aunque me digan no te quedes, yo sí que me voy a quedar. Pues hace rato ando esperando tu visita. Jesucristo no va a misa los domingos. Se queda jugando parques, dominó, apostando al bingo. Llegó tu jíbaro, baja del techo Nicanor y grita: soy ateo. Gracias a Dios, el que murió por mis pecados. Y yo, que ni siquiera había nacido, luego fui condenado a vivir entre prepagos, hijos no planeados, trovadores, policías, doctores, sabios y bandidos. Señora, nadie nace malo, el amor es congénito, lo demás es aprendido. Con mis impuestos pago el nuevo juguete del alcalde, el helicóptero con el que van a vigilarme. Bajo la cerveza, levanto la cabeza, pienso, los precios están por los aires, salud. Por los compadres en la cárcel y por los presos aquí afuera, que siga el baile. Alero, le, le, le, lo, le, lo, la. Quiero estar preso acá. ¿De dónde sale tanta nea? El barrio es un imán. Y aunque me digan no te quedes, yo sí que me voy a quedar. Scusiamo, scusa, abbiamo avuto un po' di problemini tecnici. Vabbè, bello della diretta, si dice. Non c'è problema. Ok, grazie. Niente, se ci vuoi raccontare un po', noi qua da Milano abbiamo sentito che sta succedendo, cioè c'è una chiara e netta repressione nei confronti della vostra azione, che è così interessante. Se ci vuoi raccontare un po' com'è nata e poi cosa sta succedendo? Sì, sì, noi con intenti assolutamente pacifici ieri abbiamo occupato il rettorato dell'Università di Torino, abbiamo occupato più precisamente l'Aula Magna con lo scopo di pretendere la rimozione dei controlli nei confronti del Green Pass per l'accesso all'università, proprio per il fatto che la riteniamo una misura discriminatoria e anche antiscientifica per quanto riguarda le evidenze. Qual è la questione? Che dopo una notte che abbiamo passato lì, stamattina hanno fatto uscire alcuni di noi con la minaccia che ci avrebbero sgomberati, insomma, in maniera violenta. E quindi alcuni di noi sono usciti, alcuni di noi sono rimasti invece dentro, e da lì si è comunque scatenato, diciamo, una sorta di pandemonio, nel senso che per le persone che sono rimaste dentro sono state subito raggiunte dalla Digos, che le ha tenute comunque in ostaggio e le sta tuttora tenendo in ostaggio, perché i cancelli e le porte dell'università sono chiusi. Hanno sigillato le finestre perché gli stavano passando del cibo e delle coperte dal terrazzo, hanno sigillato tutte le finestre. E noi abbiamo provato a tornare dentro, siamo stati raggiunti da una cinquantina di attivisti da altre zone del Piemonte e d'Italia, abbiamo provato a rientrare, ci è stato detto che per ordine del rettore non si poteva. Questa è una nuova misura molto grave da parte del rettore, perché dopo aver sancito il ritorno in DAD 2 settimane fa senza consultarsi minimamente col senato accademico, oggi impartisce ordini senza emanare un decreto, quindi trasmettendolo solo in maniera verbale e pertanto ufficiosa. Per questo è partita la denuncia per abuso d'ufficio. Infatti è stato decretato che l'università dovrà rimanere chiusa fino a lunedì prossimo. Noi quindi abbiamo provato a irrompere, ci hanno tenuti chiusi fuori, hanno addirittura scatenato contro di noi la cenere. È arrivata una camionetta, alcuni agenti della cenere si sono parati davanti a noi, allontanandoci, insomma, dalla porta. Anche abbiamo raggiunto in via Po l'ingresso secondario del rettorato, dove però abbiamo incontrato altrettanta polizia. Adesso ci hanno mandato addirittura 5 camionette, saremo una cinquantina di persone, ma i celerini sono, quanti noi saranno, almeno 20-25, e ce li abbiamo su tutti i lati, insomma. Noi abbiamo deciso di rimanere lì, fare picchetto a sostegno dei nostri colleghi, dei nostri compagni che sono chiusi dentro, però abbiamo, sì, la polizia alle spalle, e per il momento stiamo cercando di capire, di resistere intanto, e poi di capire come muoverci, perché, come dicevo, c'è bisogno di risorse, in quanto all'interno si trova anche una persona che soffre di celiachia e non ha niente da mangiare. Okay. Abbiamo letto anche da ieri che sì, questa azione, appunto questa lotta che state portando avanti dei studenti contro il Green Pass di Torino, però anche di lavoratori e lavoratrici, giusto? Sì, perché l'azione è stata organizzata da noi studenti, da noi studentesse, però abbiamo avuto l'appoggio di diverse associazioni di natura un po' differente, tra cui sindacati, si parla della Cub, si parla della Sicobas, con noi abbiamo anche la rete No Green Pass della Valsusa, siamo riusciti poi a racimolare diverse altre categorie, passiamo da collettivi anarchici a collettivi invece studenteschi del senato accademico, insomma molto composita. Adesso chiaramente si tratta di una rivendicazione trasversale che noi facciamo nei confronti dell'università, ma che poi è connessa ai più diversi ambiti della vita, no? Dell'esistenza, quindi abbiamo sentito assolutamente che si trattasse di una lotta che appartiene a tutte e a tutti e che ognuno deve assolutamente combattere. Certo, sì. E grazie mille, teneteci aggiornati di come va in questi giorni e non so, augurandoci che azioni come questa che sta avvenendo in questo momento possano riprodursi in tutta Italia almeno. Ciao, grazie. Abbiamo sì ricevuto adesioni comunque da molte parti d'Italia. Grazie mille per averci dato la possibilità di raccontare questo episodio. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. Bentornati, bentornati su una radio. Adesso siamo qui con una compagna del CARC che ci spiegherà che cosa è successo dalla mattina nella giornata del 25 gennaio mentre tenevano aperto lo sportello di solidarietà popolare, giusto? Sì. Quindi adesso lascerei la parola alla compagna del CARC che ci spiega innanzitutto che cos'è questo sportello e che cosa effettivamente è successo durante la giornata del 25 gennaio. E ciao a tutti, intanto vi ringrazio per averci invitato a questa puntata. E appunto il 25 gennaio come partito stavamo tenendo lo sportello di solidarietà popolare. È uno sportello che abbiamo lanciato a fine dicembre proprio per dare risposta a, alla repressione feroce che si stava e si sta abbattendo sul movimento No Green Pass, in particolare ovviamente quello milanese, e però fino all'inizio volevamo che lo sportello fosse un momento sia per quanti durante le mobilitazioni contro il Green Pass sono stati colpiti dalle denunce, dalle multe, insomma per non lasciare da solo nessuno, sia un'occasione per i lavoratori sospesi o comunque che hanno dei problemi sul posto di lavoro da quando è stato introdotto il Green Pass, per avere un ambito di confronto e di supporto e di indicazione, insomma, di quello che possono fare sul posto di lavoro. In particolare il 25 gennaio lo sportello, che si teneva di sera, ospitava Gianfranco Bignamini, che è un compagno ed è il segretario regionale del FISI, proprio perché ai due sportelli precedenti avevamo proprio recepito una necessità importante da parte di chi prendeva parte agli sportelli, di avere un confronto con dei rappresentanti sindacali che potessero dare risposta ai problemi veramente che stanno vivendo, problematiche di ogni tipo in verità, e quindi appunto abbiamo pensato di invitare questo compagno per rispondere ai lavoratori. Poco prima che iniziasse lo sportello si sono presentati in sede, hanno provato a entrare nella nostra sede due agenti in borghese, qualificandosi come agenti del vicino commissariato di polizia, al quale è stato indicato, cioè che ha visto che si sarebbe svolta questa iniziativa, e loro volevano sapere come si sarebbe svolta, a che ora sarebbe finita, se pensavamo di fare delle azioni all'esterno oppure rimanevamo all'interno, e via dicendo. La risposta che abbiamo avuto io e l'altro compagno che eravamo presenti è stata di non dargli alcun tipo di informazione, di non cedere di fatto a queste provocazioni, a questa intimidazione, ma appunto la cosa che le abbiamo detto è stata: tutte le informazioni che volete le trovate online, perché è un'iniziativa pubblica e non riteniamo necessario darvi ulteriori spiegazioni. E insomma, la Digos fondamentalmente ci ha detto che era lì per garantire lo svolgimento dell'iniziativa e che era lì per garantirci la sicurezza dai malintenzionati che avrebbero potuto prendere parte a questa iniziativa. Capite bene che come partito noi abbiamo vissuto per 20 anni una repressione da parte dello Stato borghese, una repressione da parte delle forze dell'ordine, e già soltanto per le mobilitazioni contro il Green Pass abbiamo ricevuto 8 multe complessivamente fra i vari compagni che hanno partecipato, 8 multe, io ho ricevuto personalmente un DASPO di 6 mesi dal centro storico di Milano, quindi sono per ora, il prefetto mi ritiene un soggetto pericoloso. Abbiamo una denuncia per resistenza pubblica ufficiale e io sono indagata in questo momento per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Quindi chiaramente che la Digos ci venga a dire che vengono a tutelare la nostra sicurezza dai malintenzionati è una presa per il culo ed è un vero atto di intimidazione nei nostri confronti. Però qual è la questione? La questione è questa: quando la repressione colpisce vuol dire che si è presa una strada e una direzione giusta, e noi appunto abbiamo rivendicato che questo atto intimidatorio non ci fermerà. Noi proseguiremo con lo sportello di solidarietà popolare, ne facciamo uno ogni 2 settimane, e riteniamo che sia la risposta giusta da dare alla Questura di Milano che fa queste provocazioni, e ci teniamo anche a precisare che è importante non farsi intimidire dalla repressione, perché è chiaro che ogni forma di lotta contro lo stato di cose presenti, contro il governo che fa che assume delle posizioni antipopolari, che appunto impone una tessera per andare a lavorare, impone di pagare per lavorare, chiaramente tutte le forme di ribellione ci saranno sempre di più forme di ribellione contro questo stato di cose, contro il governo, ed è importante che abbiamo ben presente che la repressione colpirà, ma colpirà non perché il governo è forte, ma proprio perché il governo è debole, e lo dimostra secondo me bene il fatto che le forze di questo governo, le forze dell'ordine di questo governo vengono a uno sportello di supporto sindacale. E per esempio, ma lo dimostra anche le manganellate agli studenti che erano in piazza per Lorenzo, lo dimostra la testimonianza dello studente dell'Università di Torino. Insomma, in realtà il governo è molto debole in questo momento, e noi dobbiamo fare in modo che la lotta contro la repressione e la lotta anche contro il Green Pass si unisca e crei forme di coordinamento anche con tutte le altre lotte. E niente, fondamentalmente questo. Per quanto riguarda lo sportello, sta diventando anche un punto di raccolta, diciamo così, di una parte del movimento No Green Pass, che in questo momento è alla ricerca di come riprendere e rilanciare la lotta, e quindi insomma anche in queste settimane abbiamo preso l'iniziativa Diritti Fuori Servizio, lanciata dagli studenti contro il Green Pass, e perché riteniamo che in questo momento la lotta contro il Green Pass e per l'abolizione del Green Pass debba passare necessariamente dal rendere inapplicabile, fare un problema di ordine pubblico, l'attuazione del Green Pass in ogni luogo. Mio fra che magna, se non metto il passamontagna, lo buttano in gabbia, pensando che il ragazzo cambia, ma esce fra con più rabbia. Italia corrotta e mafia, lo Stato fornisce e poi dopo ci butta in gabbia. Mio fra inza magna, le accostiti calo, mi rialzo quando cado, NPT per il team. Aprile 2018, il resto è storia. Beccaria, San Vittore, opera, bollate. Chi le paga le bollette? Eh? Fermi tutti, questa è una rapina. Non voglio sentire qua parlare troppo. Ehi, all'autobus si stacco con la Nina. Alto mico grosso, lo metto in ginocchio. Ehi, non fa più grosso davanti a un mitra. Sta zitto in silenzio come un ogni flow, ehi, non è per moda come i bimbi minchia, che lo fanno per moda, per me era bisogno. A cavo la mula, a casa la muffa, non funziona stufa, baby fra si stufa. Esce fa rapina, porta una denuncia, mamma che lacrima, mamma vita lunga. Baby dammi nei treni, ti do in casa dell'alermo. Va dormi in giro, me vla dentro la galera. Mungia tiene un bambino, e il bambino ha fame. Chiudi a sti bambini, che vuol dire la fame. Mio fra che magna, se non metto il passamontagna, lo buttano in gabbia, pensando che il ragazzo cambia, ma esce fra con più rabbia. Italia corrotta e mafia, lo Stato fornisce e poi dopo ci butta in gabbia. Sulle mani questo non è un concerto, lo parla proprio, meglio essere concreto. Entro in banca vesto nero completo, arma in testa finirai cimitero. Bambini non fanno il compleanno, hanno freddo addosso adesso, voglio tutto quanto. Capo banda, capo branco, arma contro il direttore. Forse meglio che stai calmo, sto mirando dritto al cuore. Baby stava sui treni, camminava sui treni, andavo la mattina, tornavo per le 20, senza pane nei denti, brutto figlio di puttana. Ti leviamo i gioielli, ti stacco quella collana. Zitto. Yo. Tocchi mio freno, finisce male. Baby rimane galera ospedale. Peso 40 ma magi mambale. Ora tutti che ci vogliono copiare, e non va bene se no in tele. Dicono che sono un criminale. Tengo addosso fra due pistole e non sono manco un pubblico ufficiale. Libero shippe, tre colpi a pusher, saltano due dite, coca e manite, buste e palline, necco San Siro, frate e la site. Fanno i crimi, ma sono mini, fanno i gangsta sopra una mini. Io vero gangsta sopra una bitches, non parlare rapper, fico la tua bitches, baby gang. Gang, gang, gang, gang, ma quale gang, gang, gang, gang? Parlano di baby gang, gang, sapono che capaten. Gang, gang, gang, gang, ma quale gang, gang, gang, gang? Parlano di baby gang, gang, sapono che capaten. Più la denuncia, fuck la polizia, faccia da pusher. Hai le palle piccole, brava col push-up. Ezza non ringhia, Ezza colpisce. San Siro lecco, San Siro lecco. Ci leccano il culo, ci vogliono adesso. Non parla tanto, non guarda tanto, non sento tanto, fuck al commissario. Ora passiamo in tele, ma solo su Digi. Fanno i crimi, ma solo su Igi. Con i ferri finti, pistola piombini. Lecco San Siro, questa è la city. Libero ship, porca puttana, cazzo deve uscire. Carico il fucile, li faccio fuori, troppo facile. Senza permesso, prendo il possesso, dico il processo, non ci penso adesso. Cattura d'arresto, fuori mio fratello. Numero 10, je suis pas chez son. Baby che passa, rapping in banca, l'abbiamo fatta, ora torniamo a casa. Non ti distrarre figlio di puttana, che se tutto va male ti rientro in casa. Bang bang bang. Gang gang gang gang, ma quale gang gang gang gang? Parlano di baby gang gang, sapono che capaten. Gang gang gang gang, ma quale gang gang gang gang? Parlano di baby gang gang, sapono che capaten. Salve avvocato, buonasera, benvenuto. Siamo qua da un'oretta a parlare di Green Pass e delle mobilitazioni che si sono hanno cercato di contrapporsi al certificato vaccinale. E visto che appunto si parla di mobilitazioni, non si è fatta attendere, diciamo, la reazione repressiva di procura e questura, quindi volevamo chiedere un contributo con qualche domanda per analizzare un po' come si sono mossi. Benissimo, buonasera a tutti, ciao. Abbiamo un po' per qualsiasi vostro chiarimento. Ok, allora avremo una domanda analitica e invece una più pratica che può essere utile agli ascoltatori. Partirei con quella analitica, nel senso che in risposta alle mobilitazioni ci sono state una serie di misure, direi, ma dalle multe più semplici a perquisizioni, apertura indagini con reati che vanno da istigazione a delinquere, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, resistenza, manifestazione non autorizzata, alcune direttissime, alcuni fermi e poi anche l'uso dei DASP urbani da alcune zone del centro. Rispetto a queste, cioè a queste misure adottate, ci chiedevamo se secondo lei sono state scelte solo ed esclusivamente per il tipo di manifestazione di mobilitazione o anche per un cambio di linea interno alla questura, visto che il questore è cambiato. Beh, è abbastanza difficile rispondere a questa domanda. Partiamo un attimo, riepiloghiamo qual è la situazione che si è verificata dal punto di vista della risposta repressiva dello Stato contro il movimento di protesta Green Pass. Come hai detto tu, la repressione si è mossa su due piani. Un piano relativo alla contestazione di, diciamo, illeciti di rilevanza penale. Sono stati effettuati degli arresti nel corso di alcune manifestazioni e soprattutto in seguito ad alcune indagini sono stati fatti dei difetti di perquisizione e in alcuni casi dopo anche molti mesi sono state emesse delle misure cautelari nei confronti di persone che sono state individuate come partecipi a questo tipo di manifestazioni. Perché si è proceduto addirittura in alcune volte all'arresto? Perché vengono contestate tra virgolette dei reati che, diciamo, da un punto di vista formale sono piuttosto gravi, perché viene contestata in alcuni casi la resistenza pubblico ufficiale, viene contestata l'interruzione di pubblico servizio, viene contestata, come hai detto tu, l'istigazione a delinquere, in alcuni casi, in un caso che mi sono occupato, viene contestata l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico, che è tra l'altro una pena piuttosto piuttosto rilevante. Quindi l'armamentario dal punto di vista giudiziale che è stato messo in campo è piuttosto importante, ma quello che preoccupa di più è l'armamentario diverso, quello dell'illecito amministrativo, perché è un armamentario più pericoloso, perché va a colpire forse in maniera più diretta coloro che partecipano a questo tipo di manifestazioni, perché lo si colpisce con delle sanzioni di tipo amministrativo pecuniario di una certa consistenza, perché si tratta di violazioni che comportano il pagamento di multe piuttosto salate, soprattutto se le condotte vengono reiterate nel tempo, come mi sono accorto che sono le contestazioni che vengono fatte in questo periodo, e soprattutto la reiterazione di queste partecipazioni a manifestazioni che non bisogna dimenticare che è del tutto lecito partecipare a delle manifestazioni ed è previsto dalla nostra Costituzione. Comunque la partecipazione a manifestazioni connotate dalla adesione alla critica al Green Pass può addirittura comportare delle sanzioni amministrative più pesanti, come quelle di applicazione del DASPO urbano. Il DASPO, la parola un po' misteriosa, il DASPO è un acronimo. Il DASPO è uno strumento che è stato usato soprattutto all'inizio degli anni 90 per le manifestazioni sportive, tanto che vuol dire divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Il DASPO urbano è una misura che non consente a coloro che sono destinatari di questa sanzione amministrativa di poter muoversi all'interno della città. In particolare, il DASPO non consente alle persone di accedere nel centro abitativo. Tu mi fai una domanda se questo tipo di misure è in qualche modo collegabile al cambio di orientamento politico che c'è stato all'interno della questura di Milano con il cambio al vertice soprattutto del questore. Questo potrebbe essere, lo dico perché il questore Petrozzi prima svolgeva la sua attività a Torino, e a Torino è stata una delle prime piazze dove si è incrementato l'uso di questo tipo di strumenti. Mi riferisco a uno strumento un po' diverso ma abbastanza uguale, che è quello delle misure di prevenzione. Ecco, molto spesso è stato usato questo strumento da parte dell'esecutivo e quindi dalla questura di Torino per colpire i movimenti di lotta. Si è usato lo strumento delle misure di prevenzione, quindi dei fogli di via, della sorveglianza speciale nei confronti degli attivisti. Quindi potrebbe effettivamente esserci un collegamento tra il cambio ai vertici della questura di Milano e l'introduzione di questi nuovi meccanismi. Ok, sempre sul DASPO. Ho fatto un po' lungo, però. No, vabbè, era una domanda un po' contorta forse, non lo so. Comunque, sempre sul DASPO abbiamo un'altra questione rispetto ai luoghi di accesso e non accesso che vengono scelti, cioè che vengono elencati nel dispositivo. Ci chiedevamo se fossero in continuità con alcune norme precedenti, sempre che riguardavano l'accesso o la fruizione di alcuni spazi, tipo le norme antidegrado, antibivacco, antialcol, tutte quelle che prima hanno generato altre misure per gestire la presenza nel... Sì, allora, hai fatto l'osservazione giustissima. Noi stiamo parlando di una misura che è stata introdotta nel 2017 con uno dei tanti decreti sicurezza che dal 2000 in poi, diciamo, più o meno si sono susseguiti in Italia, e con i decreti Maroni, i decreti Salvini, quelli degli ultimi anni. Questo è in particolare quello che noi chiamiamo il decreto Minniti, che ha introdotto tantissime cose nefaste, perché ad esempio ha ampliato il numero di quelli che una volta erano i CIE, adesso si chiama CPR, ma comunque, insomma, per intenderci, la detenzione amministrativa per gli stranieri. Ecco, Minniti è uno dei responsabili primari di questo ampliamento della possibilità di applicare la detenzione amministrativa per gli stranieri. Effettivamente questo tipo di meccanismo, quindi il DASPO, le sanzioni amministrative, sono state introdotte a tutela di una cosa piuttosto bizzarra, la sicurezza urbana. Che cosa si intende per sicurezza urbana? La possibilità per i cittadini di vivere una vita dignitosa in un contesto di decoro della città. Questo è la sicurezza urbana. Quindi l'applicazione che all'inizio è stata data a questo decreto è proprio per colpire quelle categorie che vengono considerate più reiette dalla società, quindi per colpire gli ultimi, per colpire quindi le persone che dormono in strada perché non hanno abitazione, per colpire gli stranieri, gli irregolari, quelli senza permesso di soggiorno, per colpire chi fa abuso di sostanze alcoliche, di abuso di sostanze stupefacenti, per colpire le ragazze che si prostituiscono nelle strade. Questa effettivamente è stata l'applicazione primaria di questo decreto. A un certo punto si è provato ad applicare questo strumento anche per altri motivi. Uno di questi motivi è stato effettivamente questo tipo di manifestazioni contro il Green Pass. Tanto che effettivamente mal si conciliano queste normative in realtà applicate a un contesto di manifestazione, perché la norma, poi sono le norme contestate, sono, se vi interessa, gli articoli 9 e 10 di questo decreto, dovrebbero andare a colpire chi stanzia in un determinato luogo, impedisce l'accesso ai servizi pubblici che sono all'interno di questo luogo, quindi è ovvio che è studiata proprio per colpire quelle categorie di ultimi di cui ho fatto prima cenno, e non a contesto di manifestazione dove la gente si muove da un posto all'altro. Insomma, è uno strumento usato forse anche un po' male. Ok, vengo all'ultima domanda, che invece è un po' più pratica e potrebbe essere utile a qualcuno che ascolta. Ci chiedevamo se per il DASPO si può fare ricorso, come per esempio per i fogli di via, e come funziona eventualmente questo ricorso. Allora, per il DASPO ovviamente si può fare ricorso come contro qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo. La problematica del ricorso contro il DASPO è la stessa del ricorso contro le misure di prevenzione, ad esempio un foglio di via. Bisogna fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, caso in cui ovviamente stiamo parlando di manifestazioni avvenute a Milano, e il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ha dei costi piuttosto elevati, perché ha dei costi per quanto riguarda l'accesso alle marche che devono essere depositate nel momento in cui si iscrive il ricorso al ruolo, di circa 700 euro. Quindi effettivamente è problematico, e per questo che è uno strumento anche efficace, ma è problematico anche perché, per quello che sto vedendo, questi fogli di via hanno una durata piuttosto limitata, non perché hanno una durata di circa 6 mesi, non che 6 mesi sia un periodo in sé piuttosto limitato, ma se dobbiamo affrontare un'impugnazione nei confronti di questo tipo di provvedimento, dovete capire che 6 mesi sono pochi, perché ora che si predispone un ricorso, il ricorso va iscritto, il ricorso deve essere notificato alla controparte e all'avvocatura dello Stato. Una volta che ho la prova della notifica del ricorso, devo iscriverlo al tribunale. Il tribunale mi deve fissare udienza, magari sono già passati 3 mesi, e a quel punto spendere dei soldi per fare un ricorso contro un provvedimento che di lì a poco va in scadenza, capite che è un po' problematico. Nonostante poi vi siano molteplici ragioni di diritto per affrontare questo ricorso, perché ritengo che questi DASPO siano per lo più immotivati, soprattutto da un punto di vista proprio del diritto e dell'errona applicazione delle norme di questo decreto Minniti. La problematica è però quali sono le possibilità effettivamente di impugnazione dal punto di vista materiale. Certo, ma perché secondo me è una cosa molto interessante che dicevi prima, era certo è stato utilizzato sicuramente anche il diritto penale come strumento repressivo, ma la scelta di usare in maniera peculiare quello amministrativo, anche perché si è sempre in delle forme ibride dove poi di fatto quelle che in teoria sarebbero le garanzie del diritto penale non ci sono. Io ricordo i primi tempi, le multe contro gli assembramenti se si usciva di casa, poi quando sono state usate come strumento anche contro manifestazioni politiche di diversissima natura e di varie forme, poi sostanzialmente nascondevano delle sorte di indagine a cui però non si potevano opporre gli strumenti tipici appunto in teoria dei processi, no? E quindi foto, video, materiale... tutela nei confronti di queste misure, c'è una minore possibilità di difendersi. Esatto, va bene, noi ti ringraziamo tantissimo. Ma i costi soprattutto che rende difficile la cosa. No, ma è molto importante, anche perché poi è vero che alcune misure scoraggiano molto, no? Poi proprio la permanenza in piazza dopo che hai accumulato 10 multe, hai appunto un DASPO che per fare ricorso devi pagare 700 euro. È chiaro che si cerca di disincentivare anche in questo modo. Però bisognerebbe farlo, almeno prendere 2 o 3 casi, ci sono 20 DASPO, parre per due, una questione di principio. Sì, non lasciare passare così. Esatto. Perché comunque poi si creano dei precedenti, si fa vedere che questi ricorsi, poi questi DASPO sono dei provvedimenti immotivati. Certo. Quindi, forse un'impugnazione in qualche modo va fatta, poi ovviamente non dipende da me, poi dipende dal singolo. Però dal punto di vista del movimento forse bisognerebbe pensare a farlo. Va bene, grazie mille avvocato da parte di tutte e di tutti, e a presto, se tanto ci sarà modo di riaggiornarsi e di riparlare sicuramente di alcune questioni. Va bene, grazie a voi, arrivederci. Grazie. La chiamavano Furia Novax, non fece il vaccino. La chiamavano Furia Novax, nessuno voleva più starle vicino. Appena scesa alla stazione, un lunedì di prima mattina, tutti s'accorsero con uno sguardo che non portava la mascherina. C'è chi il vaccino lo fa per forza, chi se lo sceglie per convinzione. Furia Novax nell'uno nell'altro, lei non ne aveva l'intenzione. Una scelta non consentita, dietro la scusa dei contagiati, senza indagare se quel rimedio avesse effetti indesiderati. E fu così che da un giorno all'altro Furia Novax non poté più entrare dentro i negozi, in banca alle poste, dal parrucchiere neppure viaggiare. Per uscire da questo paesino devi avere il lascia passare. Era chiaro che da quel punto qualcosa avrebbe dovuto inventare. Spesso la gente dà retta ai consigli che sente dire alla televisione. Spesso la gente dà retta ai consigli e un animo prono all'accettazione. Così un banchiere non troppo in gamba, con interessi legati a Big Pharma, prese il potere con grande gusto per dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi a tutto il paese con un discorso senza pretese, il non punturato sarà punito, disse dall'ordine costituito. Fu nominato anche un commissario e le veline tuonavano rabbiose. Quella schifosa non ha fatto il booster nella seconda o la prima dose. Ed arrivarono 4 infermieri con le siringhe, con le siringhe. Ed arrivarono 4 infermieri con le siringhe, con i sieri. Anche gli sbirri e i carabinieri furono mandati sul territorio, ma il ministero disse soltanto a testare il moto ondulatorio. D'accordo più o meno tutti, dal commissario al presidente, erano d'accordo più o meno tutti, anche un virologo connivente. Inoculiamo ancora un poco, senza scadenza, inoculiamo ancora un poco, poi lo faremo a oltranza, con un prodotto nuovo, ancora mai provato. Qualcuno disse c'entran sicuro le quotazioni di mercato. Per essere reale non ha bisogno di uscire sul giornale. A un certo punto ci fu il sospetto che quella roba facesse male. E alla puntura successiva molta più gente più o meno capiva chi ebbe un ictus, chi una trombosi, chi segnalava una broncostenosi. Persino il medico, che non disprezza un bonifico al conto corrente, è costretto ad ammettere infine: neanche io ci capisco più niente. E dopo 2 anni di pene, Furia Novak si chiese se un giorno si sarebbe svegliato il paese, ora è il punto di non ritorno. Eccoci tornati a Male Radio, e adesso ci entriamo un po' nel mondo della scuola in questo momento, grazie alla testimonianza di questa prof che ci racconta le sue vicissitudini con il Green Pass. Ciao, benvenuta a Male Radio. La mia esperienza, vabbè, è quella con parecchie persone, nel senso che quando è arrivato l'obbligo vaccinale a dicembre io mi sono, tra virgolette, autosospesa, essendo una privilegiata, avevo diritto ancora al congedo parentale, quindi l'ho preso e sono stata a casa, per cui ho avuto modo alla fine di salutare finalmente i ragazzi, di dire loro le motivazioni per le quali io me ne andavo, e quindi è stato un po' un attimo, come dire, una cartina di tornasole, perché alla fine è stato quello che, di cui non si poteva parlare, insomma, finalmente se ne è potuto parlare, per cui l'esperienza è un po' questa, è quella di dal giornale a notte vieni lasciato fuori e i ragazzi ti dicono: ma prof, quindi lei non verrà più? No, non verrà più, ma fino adesso è venuta con i tamponi, lei era la più sicura. Ragazzi, da domani non verrò più. Ma perché non ha senso? E tu ti trovi a, come dire, a confermare quello che loro ti dicono, cioè che non ha alcun senso tutto questo. E così è. Poi vabbè, adesso il Covid, quindi torna a scuola. Però abbia, insomma, non sono i primi a essersi vaccinati. E poi se chiedevi loro le ragioni del vaccino erano platealmente: non ce la facciamo più, cioè sappiamo che non servirà a niente, loro stessi poi facevano gli sfottano sui primi ragazzi a capire realmente che, cioè, hanno capito forse prima di noi, sicuramente di tanti docenti, che questo vaccino immunizzava, che non garantiva loro, ma semplicemente gli restituiva un po' di quella libertà che gli era stata tolta. E... scusami, forse sto uscendo un po' fuori tempo. No, è quello che hai vissuto. E con le colleghe e colleghi come è andata? Ma guarda, molta indifferenza, nel senso che anche lì non si poteva parlare. Io non ho mai nascosto il fatto di non volermi fare il vaccino. Però ecco, non è che, come dire, la sensibilità poi di tutti la stessa, insomma. Però è stato anche buffo a tratti, nel momento in cui ho deciso di salutare tutti dicendo a ciascuno: guardate, c'è l'obbligo vaccinale, io non sono vaccinata, quindi dal 15 non verrò più. E vabbè, a parte quelli, gli imbecilli, no? Che anche inconsapevolmente però fanno un passo indietro, come dire: oddio, non sei vaccinata, quindi sei infetta, sei una possibile nutrice, anche se se ne erano accorti. Molta indifferenza, ti devo dire la verità. Ah, una cosa, tantissimo, prendo atto, mi spiace. Ciao, insomma. Poi so anche di altri colleghi in realtà poi sospesi, e appunto a scuola non se ne parla, ma è un tabù, è vietato parlare di coloro che sono a casa per questa ragione. Insomma, ho avuto più solidarietà sicuramente dai ragazzi che non dai colleghi, perché comunque la parte degli insegnanti comunque lo sai meglio di me, si è vaccinata subito. E come dire, la sperimentazione è avvenuta secondo me anche nelle scuole con i docenti come categoria sociale, per cui anche da lì si è partito dal design, poi sono passati gli insegnanti e il terreno è stato facile, insomma il gioco non c'è stato granché, non parlo per la mia esperienza, non c'è stato un granché di opposizione, anzi è stato un provvedimento acclamato quasi, ti direi, però vabbè, okay. Purtroppo. E va bene, grazie mille della tua testimonianza e buon ritorno a scuola. Ecco, Anche se è un periodo per la scuola adesso un po' particolare, nel senso che, come immagino che chi ci ascolta saprà, vengono in caso di due positivi in classe, possono andare in presenza solo i bambini, i ragazzini e le ragazzine che sono state vaccinate, quindi c'è questa divisione, chi non è vaccinato sta a casa e si collega online, invece chi è vaccinato può seguire in presenza, quindi questa divisione allucinante che si fa anche dalle elementari fino alle superiori, che insomma non porterà niente di buono. Esatto. Buon ritorno a scuola, grazie mille, grazie, ciao, okay, a presto, ciao. E sempre rimanendo nel mondo della scuola, adesso ascoltiamo gli studenti universitari, giusto? Esatto, adesso ascolteremo un audio che ci hanno mandato gli studenti contro il Green Pass, che sono questa assemblea che si è formata proprio al ritorno in presenza dell'università. Ci racconteranno un po' cos'è il loro percorso. Loro hanno cominciato ad incontrarsi a inizio settembre per provare appunto ad affrontare una problematica comune insieme, nonostante appunto in questo periodo di pandemia non potessero accedere all'università, quindi un po' senza conoscersi si sono incontrati e a tutt'oggi continuano a vedersi e dal primo settembre appunto anche con il loro striscione sono sempre andati in giro e riconoscibili con uno striscione con su scritto fuori il Green Pass dall'università e dall'intera società. E ecco che li ascoltiamo. Ciao a tutti, io sono Bianca dell'Assemblea Studenti contro il Green Pass di Milano. Noi come assemblea ci siamo incontrati per la prima volta ad agosto. Praticamente alcuni ragazzi avevano creato delle chat, dei contenitori su Telegram, per ogni principale città del paese. Ogni interessato poteva entrarci e darsi un appuntamento a suo piacere. E da qui a Milano ci siamo incontrati a fine mese, ad agosto, e abbiamo dato il via ad un'assemblea universitaria, che da quel giorno si incontra ogni lunedì all'Università Statale di Milano alle 17. La lotta principale della nostra assemblea, cioè il motivo per cui la nostra assemblea è nata, è l'abolizione del Green Pass. Su questo abbiamo condiviso moltissime riflessioni, moltissimi testi, ma anche abbiamo fatto tantissimi incontri pubblici, ovviamente dopo ore e ore di confronto tra di noi. Come assemblea sottolineiamo che il Green Pass è uno strumento politico, non sanitario, ed è dall'inizio della storia che sottolineiamo questa differenza. Il Green Pass non serve a contenere realmente la diffusione del virus, come i tempi recenti hanno dimostrato, per cui si traduce direttamente in ricatti sociali mai visti prima. E ormai è diventato anche lo strumento di governo di una classe politica che sta in piedi solo grazie all'utilizzo della paura. Ma questa classe di politici man mano perde di credibilità e si vede anche dal fatto che altri paesi con diverse strutture sanitarie migliori della nostra hanno ottenuto risultati migliori dal punto di vista pandemico rispetto a noi, eppure questo non ha impedito ai loro cittadini di prendere il tram se non vaccinati. In realtà ovviamente la questione è molto più complessa di quanto ho appena detto. Per affrontarla in tutte le sue angolazioni abbiamo organizzato in questi mesi diversi incontri pubblici per confrontarci tra di noi e con ospiti speciali anche su altre questioni, ovviamente tutte collegate al quadro politico che stiamo vivendo. Abbiamo incontrato Ugo Mattei, che è un professore di diritto dell'Università di Torino, sulle questioni legali legate al Green Pass. Il professore di filosofia morale Andrea Zoc della Statale di Milano sul rapporto tra verità scientifica e azione morale. Anche il professor Luca Daino per parlare della strategia della tensione usata dai governi per individuare un capro espiatorio nei momenti di crisi, facendo anche un'analogia con Piazza Fontana. Tra queste persone nell'incontro di Piazza Fontana abbiamo incontrato anche Claudia Pinelli. Ma anche molte altre, per citarne solo tre incontri che ci sono piaciuti molto e anche sono piaciuti dai riscontri che abbiamo avuto dalle persone che sono riuscite a partecipare. possiamo parlarvi di quello con Massimo Cacciari sulla crisi della democrazia che stiamo vivendo, quello con Vinicio Nardo, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, sul diritto alla manifestazione, e infine quello con Giorgio Bianchi, che è stato un bellissimo incontro di geopolitica. Tutti questi incontri sono stati aperti e liberi e ne faremo altri. Nel frattempo si possono trovare le riprese e le registrazioni sui nostri social. Questi incontri si tengono in luoghi diversi che ci ospitano, ma più spesso ci trovate in università. Questo infatti è il nostro luogo e tutti quanti in assemblea veniamo da università diverse. C'è la statale, la cattolica, il politecnico, la Bicocca, Brera. Ogni università ha gestito lo strumento del Green Pass in modo diverso. In generale, senza Green Pass non si può accedere alle lezioni, alle mense, alle biblioteche dell'università, il che, come potete immaginare, è molto penalizzante per chi non possiede il Green Pass. Ovviamente, nel frattempo, in parte, le lezioni online permettono di seguire, ma la vita universitaria di sicuro non si può risolvere stando al computer da casa. Noi proviamo a frequentare lo stesso e facciamo le nostre assemblee in università. Qui a Milano e in altre città, a parte queste restrizioni, non sono mancati episodi più gravi e limitanti, come atteggiamento di bullismo da parte dei professori o addirittura l'eliminazione delle lezioni online, oppure l'impedimento di accesso a siti se non in possesso di Green Pass. Ma in realtà pensiamo che il problema legato alla scuola non finisca qui. Cioè, nella gestione del governo di questi 2 anni di pandemia, la scuola è stata la prima ad essere sacrificata dall'inizio. La scuola è stata l'ultimo dei mondi da tenere aperti. Come se la socialità e la crescita fisica ed intellettuale anche, no? Dei bambini, dei ragazzi, dei giovani in generale, non facesse parte della sfera delle cose necessarie per rendere la vita degna di essere vissuta. I negozi sì, invece, insomma, ne hanno fatto parte. Da Zara ed H&M ci si va tranquillamente quando si vuole, mentre le classi sono state continuamente vuote a causa delle quarantene, o meglio, delle regole Covid che il governo ha emesso. Comunque, per chiudere il mio intervento, ogni giorno come assemblea cerchiamo di allargare la nostra sfera di opinione e di influenza. Non vogliamo stare rinchiusi in università e parlare solo di tamponi o Green Pass. Pensiamo che sia necessaria una nuova campagna studentesca sul momento storico che stiamo vivendo. Per questo abbiamo organizzato e partecipato alle iniziative degli insegnanti, dei lavoratori in generale, dei sindacati che si stanno muovendo per i diritti dei lavoratori. Pensiamo che ci sia un vuoto di opposizione a questo governo, ma non solo a questo governo, alle politiche in generale e al sistema che questo governo ha ereditato anche da quelli precedenti. Stiamo pensando infatti di allargare il nostro movimento alla questione della deriva tecnocratica della nostra società, alla questione della manipolazione del problema ambientale da parte dei colossi energetici. Ad esempio, pensiamo che non è un caso se proprio durante questa situazione emergenziale il governo abbia varato una delle più alte tassazioni su luce, gas e benzina che abbia mai coinvolto il nostro paese. È questo il significato, insomma, del motto «Studenti operai uniti nella lotta». Comunque, su queste altre questioni ci stiamo lavorando, mentre ovviamente portiamo avanti la lotta contro il Green Pass. Vi invito quindi a, insomma, seguire le nostre pagine per sentire delle questioni che affrontiamo di settimana in settimana. A breve vi preannuncio che lanceremo una manifestazione cittadina qui a Milano per tutti questi motivi di cui vi ho parlato. E insomma, ci vediamo presto, speriamo che di esserci fatti conoscere da nuove persone e di essere sempre più seguiti e di poter anche noi stessi conoscere nuovi ambiti di protesta. Grazie a tutti, ciao! Il a écrit quelque chose sur le mur, quelque chose qui m'accuse, quelques mots pour une cellule, mais je ne sais pas. l'avais jamais vu. Il était juste là, il était juste pâle. Je ne pouvais plus rien faire, je l'ai trouvé par terre. Il est tombé, je n'ai rien vu, je n'y étais pas, je n'ai rien su. Mais il est mort, mais il est rêvé. Mais qui a fait, mais qui a pu, mais il est mort, mais quelle boucherie. J'ai vu du sang, j'ai tout vomi, mais il respire. J'ai vu quelqu'un s'est fait rentrer ou repartir. C'est sûrement lui, c'est sûrement elle qui a écrit quelque chose sur le mur, quelque chose qui m'accuse, quelque chose qui me torture. Mais je ne sais pas, mais je ne sais rien, je ne connais même pas, je ne l'avais jamais vu. Tout est dans ma tête et je ne me rêvais pas. Éteignez la lumière, je ne connais pas. Je ne l'avais jamais vu. Assemblea Popolare di Busto Arsizio, un movimento che ovviamente si è formato soprattutto dopo l'introduzione di questo Green Pass, ormai famigerato Green Pass, e che, beh, diciamo, vi racconto un po' la storia, no, di questo gruppo. È partito da, beh, diciamo, all'inizio ci siamo formati più che altro, erano persone che si formavano tra di loro, si riunivano Piazza San Giovanni di Busto Arsizio. La prima manifestazione, prima manifestazione è stata il 24 luglio, attraverso vari canali di Telegram sono girate locandine, soprattutto dopo, ovviamente, no, questa introduzione del Green Pass, sono girate varie locandine di tutte le piazze che in cui si manifestava in Italia, e ci siamo ritrovati là tutti, diciamo, persone normali, non c'erano organizzazioni, non c'erano organizzatori, non c'era nessuna politica, non c'era niente, erano solo persone comuni. E dalla seconda manifestazione, che abbiamo fatto sempre ogni sabato, sempre lì in Piazza Busto, abbiamo iniziato invece a riunirci, abbiamo formato un cerchio a fine della seconda manifestazione e abbiamo deciso di organizzarci, formando prima il gruppo No Green Pass, e da lì abbiamo deciso anche di fare assemblee ogni martedì, Piazza San Giovanni, Busto Arsizio, almeno inizialmente, fino a quando si poteva. E niente, da lì abbiamo partito questo processo che ha portato varie manifestazioni sempre sabato pomeriggio, sono state continue, che continuano tuttora nonostante tutte le limitazioni, no, che il governo ci impone, e niente, qua, diciamo, l'introduzione. E poi, vabbè, abbiamo fatto anche varie altre varie altre iniziative, come circa, cosa che era, la Cirque di tua sorella. Sì, Cirque di tua sorella, che era arte di strada. Beh. Interventi come quelli di Marco Cosentino, non so se lo conoscete, professore universitario dell'Insubria, i vari interventi anche di medici di ippocrate.org, che abbiamo deciso un po' di alternare a vari cortei e presidi per cercare, no, di dare qualcosa di diverso e portare alla piazza di Busto. Ciao a tutte e a tutte, a tutti e a tutte. In pratica, dopo abbiamo cercato, come ha detto il compagno, abbiamo cercato di variegare il più possibile le diverse iniziative in modo tale che non risultasse la solita monotonia da quando è stato imposto il divieto delle manifestazioni, poiché in seguito a quello i cortei che prima si facevano ogni sabato, dei quali non abbiamo perso uno, si è sempre stati in strada, in piazza, tutti i sabati al di fuori di Capodanno, non abbiamo mai mancato un appuntamento, neanche a Natale. E in seguito al dispositivo introdotto dalla Morgese, che è stato una sorta di summa di tutti i decreti precedenti di sicurezza, da Minniti, Salvini e via dicendo, abbiamo mantenuto sempre presidi statici fino a poi qualche settimana fa, che abbiamo provato a fare un corteo, riuscito, la Digos ha cercato di bloccarlo, poi siamo riusciti. E sono state... Aggiungo una cosa su questo corteo, che tra l'altro la Digos, appena cercato di bloccarlo, si è andato subito a canire con l'unico di colore del nostro gruppo, stranamente. E in pratica abbiamo cercato di procedere sempre diversificando il più possibile. È un'assemblea molto eterogenea, si è consolidato uno zoccolo duro di persone che partecipa all'assemblea, sono nate amicizie, si sono instaurati dei bei rapporti, e quello di cui possiamo fare un vanto sicuramente è appunto l'eterogeneità. Ognuno viene da esperienze diverse, chi oramai rodato manifestazioni, cortei, presidi, chi già in aree, compagni anarchici, di aree diverse, e appunto stiamo cercando di spostarci anche noi, come prima ho sentito accennare dagli studenti contro il Green Pass di Milano, stiamo cercando anche noi di andare al di là di quello che è lo strumento del Green Pass in questo periodo, poiché anche noi c'è coscienza, comunque c'è una forte rabbia contro tutta quella condizione economica e sociale attuale, e si vorrebbe andare al di là dello strumento nel periodo, anche perché poi, come bene è stato fatto presente anche dagli interventi precedenti, non si limiterà solo a quello che è il Covid, non essendo chiaramente uno strumento sanitario, ma politico, è solo, come si può dire, uno strumento che si inserisce in una fase di passaggio, di cambiamento epocale di quella che è la società. Difatti in molti interventi, principalmente la forma che ha preso la piazza è quella del presidio con microfono aperto, nella quale chiunque può intervenire. È stato fatto più volte presente la digitalizzazione e quello che è il l'impasse. Come? Il fine. Il fine di un controllo sempre più pervasivo, autoritario, che lascia sempre meno spazio a teste pensanti. E anche nella nostra realtà sono state, soprattutto inizialmente, intentate misure repressive come fogli di via e denunce per 18 tubs, manifestazione non autorizzata. Un lato molto positivo è stato fatto un ricorso da un compagno ed è stato vinto. Il foglio di via era per 3 anni, quindi è stato anche sensato, come appunto prima diceva l'avvocato, che bene o male li danno brevi. Questa volta sono stati dati tutte e tre di lunga durata. Sono stati anche rivendicata la violazione del foglio di via proprio come volontà politica dell'esprimere la contrarietà a questa misura ed è stata anche espressa molta solidarietà, dalla solidarietà che è nata tra i partecipanti alle piazze e all'assemblea, è nata anche un'assemblea di solidarietà che ci ha dato modo di comprare attrezzature, stampare volantini e... Una cassa di solidarietà. Sì, sì, una cassa di solidarietà, scusate. E... Io a proposito... aspetta, no. No, che volevo aggiungere che comunque dopo anche nonostante questi fogli di via che sono stati messi ovviamente per spaventare le persone, questo invece ha fortificato ancora di più il nostro gruppo. Esatto. E infatti tante persone hanno partecipato a questa cassa e ha aiutato molto per le denunce. Ha ottenuto l'effetto opposto, diciamo, di quello che volevano. Per una volta. Sì. Sono molto contenta di sentire quest'ultima cosa che dicevate, un esempio ogni tanto di virtuosismo. E no, io volevo chiedervi, visto che appunto avete parlato di voler ampliare le tematiche, abbiamo parlato finora di principalmente momenti di piazza, però in realtà poi ci sono stati anche dei racconti di altri tipi di iniziative che completano un po' anche l'immagine che potrebbe essere di una lotta. Mi chiedevo se avesse provato anche diversi tipi di intervento, che non fosse solo quello del corteo di piazza, per esempio, non so, che possono essere blocchi o volantinaggi sui luoghi di lavoro, non so, avete sperimentato anche queste altre pratiche? Finora non c'è stato modo di utilizzare altre pratiche di lotta, se volantinato nei mercati, sempre abbiamo fatto questo volantino che oramai da luglio che si sta distribuendo, che è il Green Pass Rende Liberi, e poi tutti i richiami alle diverse iniziative e all'assemblea, purtroppo non c'è stato modo di attuare fino adesso. Abbiamo volantinato anche lì. Abbiamo volantinato anche davanti alle farmacie, portando magari caffè caldo a tutte le persone che erano lì per farsi i tamponi per andare al lavoro. Caffè caldo, io ogni tanto anche qualche torta portavo, che ci stava anche. Insomma, tante cose anche per accogliere persone, no? Visto che dopo il decreto, dopo la Morgese, l'ordinanza della Morgese, abbiamo perso un pochino di numeri, diciamo. Però comunque siamo sempre un gruppo solido che resiste sempre. Grandi, infatti a questo proposito come pensate di continuare? Avete degli appuntamenti che volete rilanciare? Che prospettive vi date? Allora, adesso stiamo organizzando attraverso un coordinamento provinciale e anche al di là della provincia un grande corteo proprio per rilanciare le mobilitazioni che purtroppo adesso soprattutto in Lombardia, nel caso specifico di Milano, sono state quasi azzerate dalla repressione, al di là poi di qualche presidio che però incontri non condivido troppo le modalità di conferenza, ecco, che sono state portate. E questo grande corteo appunto insisterà, oltre che sul tema del Green Pass, su tutti gli altri temi, ad esempio il caro vita, lo sfruttamento, la digitalizzazione, l'inquinamento. Si cercherà proprio di ampliare l'orizzonte. Difatti l'indizione del corteo, il titolo è Contro il Green Pass e oltre. Si terrà il 26 febbraio, abbiamo scelto Busto appunto perché siamo nati lì e l'abbiamo indetta noi, e quindi si pensava proprio un grande corteo in modo tale da rilanciare tutto questo un po' periodo di un po' morto, diciamo. Che possa essere anche replicato, no? Magari esatto, viene bene a Busto e poi è preso come esempio. Sì, sì, proprio. Tutto. Esatto. Si va. perché poi penso che le iniziative anche vicine geograficamente poi piano piano si diano un po' di impulso a vicenda, sì, no? Sì, da questo sì. Punto di vista l'intento sicuramente l'intento si capisce molto chiaramente che è proprio quello di tenere vivo il più possibile spingere il sentimento, la anche perché diciamo, poi esatto, la ribellione, esatto. Il sentimento di ribellione. Grazie mille, vi ringraziamo. In realtà... Grazie a voi. Grazie anche a me. In realtà siamo arrivati anche agli sgoccioli, adesso magari sentiamo prima una canzone, facciamo una piccola pausa musicale e poi ci risentiamo per le ultime battute. Ormai chiuso da giorni, passo il tempo tra quattro mura. Non soldato in battaglia, presto si scorda la paura. Perso sangue sulle stesse strade dove ho perso qualche fratello. Fin da bimbo abituato al peggio, cresciuto carne da macello. Prima vivevi la strada, per chi parlava si usava lo shotgun. Ora scrivono di strada e chiamano l'auto che ti si porta. Proprio come quella volta, prima malandrini, poi c'ha Marescia. Dopo il video di non aprite quella porta, torno sotto casa e c'è il Maracanã. Non parlo con loro, parlo con gli altri, quelli davvero cresciuti bastardi. Quelli di strada che ancora la vivono, sono felice di rappresentarvi. Sarò la vittima sacrificale per farvi vedere quanto sono finti. Questi che sparano nelle canzoni, nella vita vera chiamano gli spirri. Stare da solo non mi dà fastidio. Ci hanno provato ma ancora sorrido. Non ho contatti con nessun amico, però so bene quanto gli ho vicino. Ho visto cose che nemmeno dico. Passato giorni nella malavera, molto coperto da prima del virus, mesi in casa prima della quarantena. Cia! La nuova generazione non ha più quel vecchio valore, ma neanche mettendolo in gabbia riesce a domare un leone. Perché la savana di crescita ha già superato tutte le prove. Le sbarre sono intorno al corpo, non puoi intrappolare la mente e il cuore. Mi affaccio al balcone, non vedo persone, Roma mi sembra deserta. Amo questi attimi di riflessione, mi guardo nel cuore per chi occhi mi aspetta. Per un guerriero non esiste cella, non c'è prigione che ormai mi spaventa. Perché ho l'onore e gli amici e una donna che sono al mio fianco anche nella tempesta. Armato dentro, quali pistole, anima forte, viso sereno. Guardo le stelle, sento calore, so che c'è chi mi protegge dal cielo. Questa è una giungla ed ogni serpente ha pronto il suo veleno. Abbandonato solo nel nulla, una madre lupa mi ha dato il suo seno. E mi ha reso più forte, più saggio e più determinato. Come col sudore in faccia sul quadrato, molti non vorrebbero vedermi nato, ma ho fatto da me da quando sono nato. Mi hanno chiuso in casa per tenermi a bada, ma mi hanno dato solo tempo. E adesso con tanto da dirvi, tenetevi pronti che tra poco esco. Ecco, quindi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata sulle lotte No Green Pass. Noi vogliamo ricordarvi forse ancora due appuntamenti che sono, visto che i nostri ultimi ospiti sono stati così carini a venire qua a raccontarci, noi invece rilanciamo l'appuntamento di sabato a Busto Arsizio, a che ora? Piazza Santa Maria. Piazza Santa Maria alle 16, visto che non vi fate mancare un sabato, e soprattutto vi invitiamo alla partecipazione del 26 febbraio del corteo di cui ancora non si sa il punto di incontro, però se vi potete tenere informati sulla loro pagina Facebook, Assemblea Popolare Busto Arsizio, Assemblea Popolare, canale Telegram sempre Assemblea Busto Arsizio, e hanno anche un canale Telegram Assemblea Popolare Busto Arsizio, e quindi magari ci vediamo per strada. Noi vi salutiamo e vi diamo gli ultimi appuntamenti e gli ultimi contatti nostri, ultimi speriamo di no. La nostra mail è sempre malaradio@autistici.org, scriveteci per qualsiasi idea, lamentela o proposta che ci volete fare. Abbiamo il canale Telegram di Malaradio, oppure la pagina Facebook Malaradio Milano e anche il canale Instagram, su cui potete tenervi aggiornati per gli appuntamenti di queste future puntate che faremo. E noi vi salutiamo dal cuore di Milano e ci vediamo presto. Ciao! Ciao.